Buonasera a tutti, qui siamo a Radio Alma 101.9 FM, siamo a Bruxelles e qui in studio c'è Carla e Giampaolo e Angelo alla regia. Grazie Angelo di supportarci e sopportarci. Bene, oggi 25 giugno siamo qui riuniti per questa occasione. Beh, in realtà abbiamo a lungo riflettuto e ci siamo detti bisogna parlare di questo giugno, il mese degli esami, il mese dello stress e dell'ansia dovuto da questi esami che chi per le elementari o forse è stato abolito, chi per le medie, chi per il diploma, la laurea, gli esami dell'università, l'esame di stato, chi per un motivo chi per un altro studia. Ma è stato abolito l'esame delle elementari, questa? Sì, mi sembra di sì, ci vorrebbe qualche bimbo, Angelo non sento più nulla, ecco, ci vorrebbe qualche bimbo che ci chiama e ci dice effettivamente se quest'anno si fa l'esame in quinta elementare. Quindi a questo proposito ricordiamo i numeri di telefono di Radio Alma. Allora, se siete qui a Bruxelles o anche volete chiamarci dall'Italia, il numero è 02 345 26 56, ovviamente se chiamate dall'Italia dovete... porre avanti avant-por 0032, quindi 0032 dovete prefissare, prefissate ragazzi e bambini, fateci sapere, questo esame di quinta elementare è stato abolito. E Antonella è già in ascolto e ci ha ritrovato sulla nostra pagina Facebook, grandissimo Antonella, Angelo e Carla, quindi le mandiamo un caloroso abbraccio e lei ci scrive: noi siamo già in ascolto, aspettavamo voi. Dai, grazie Antonella, continua a seguirci. Bene, bene, allora questi esami, ma diciamo che giugno, oltre a essere un periodo di esami, è un periodo di conclusione comunque di un anno scolastico, di un periodo che è passato, un qualcosa che simbolicamente si conclude, quindi diciamo non è solo sintomo di qualcosa di negativo. Tempo di bilanci, giugno. Tempo di bilanci, tu sei della bilancia? No. Di che segno non sei? Non sono per niente bilanciato. No, io sono cancro. Ah, sei cancro. Ah, sei nato sì. Oggi, Giampaolo, facciamogli gli auguri. Adesso ci attrezziamo per un jingle di auguri. Quanti anni fai? 18. No, 17 e mezzo. 17 e mezzo, non sì, sei autorizzato. È stata in un'età istituita appositamente per me. Ho fatto una richiesta particolare e quindi ho detto: no, quest'anno non mi va di fare 18 anni, allora mi fermo a 17 e mezzo. Senti, Giampaolo, puoi uscire perché i minori non sono. Non possono condurre una trasmissione radiofonica. E per Giampaolo, tanti auguri! Per i tuoi 17 anni e mezzo! Quanti anni fai? 17 e mezzo! 17 e mezzo, Angelo! Angelo, ma non ascolti, penso! No, 18 e mezzo, ha detto, mi sembra! No, 17 e mezzo! 17 che mezzo. Porta pure sfiga! Ok, dai, ritorniamo in studio! Tanti auguri, grazie, Giampaolo! Grazie. E Giampaolo ci diceva tout à l'heure che anche lui è in periodo d'esami, in realtà non a livello fattuale ma a livello che attende risposte. Attendiamo queste benedette attende risposte in linea. Sì, però la linea non c'è, perché aspettiamo queste risposte di questo esame di stato. Da dove devono venire queste risposte? Da Trieste, quindi se abbiamo triestini, dai, in che ascolto, siamo vicini, è un dai. Appello, per favore sbrigatevi, fateci sapere qualcosa. Dai, potete, Trieste, commissione per l'esame di stato di avvocati, potete chiamarci allo 02 345 26 56 per farci sapere i risultati di Giampaolo Cangemi. Così siamo passati dai colori dell'anima a chi l'ha visto. In realtà a questo punto colgo l'occasione per fare un annuncio anche per i miei risultati che attendo. Attenzione, perché attenzione, non sono solo attenzione. Io ad aspettare i risultati, ma anche Carla sta aspettando il risultato importante. Sì. Innanzitutto volevo ringraziare l'esistenza degli esami di stato che mi hanno consentito di tornare un po' in Italia, di prendermi una bella pausa, anche se per studiare ho goduto del sole, della piscina jacuzzi di mia sorella, del sole dei nipotini, che saluto, Alessandra e Andrea, normalmente dovrebbero essere all'ascolto, quindi li salutiamo. E niente, io aspetto gli esami, i risultati della prima prova di esame di stato come psicologa. E quindi, insomma, attendiamo in linea anche sì, che voi. Poi, Carla, a proposito della tua permanenza giù, noi abbiamo visto tante foto, ma libri non se ne vedevano mai. Ovviamente, ovviamente. Abbiamo postato numerose foto e poi, insomma, c'era il mare, pizzeria, pizze varie, sole. Ma tutto, barche, sole, sì, mare, sì, gente sì, abbronzata, sì. Occhiali da sole. Devi sapere che la foto che tu hai visto era subito dopo al salvataggio di una pianta, perché a Napoli sul porto c'era molto vento e una pianta si è accasciata, e quindi io e Rachele, mia sorella, l'abbiamo salvata, e quindi c'è stata la foto di salvataggio. Augurissimi al mio migliore meraviglioso fratellino, avete scelto la canzone più adatta per fargli gli auguri, gli piace tanto e sa fare anche il balletto, ciao a tutti. Come si chiama tua sorella? Antonella. Ciao per gli Antonella. Amici di Facebook, tra poco sposteremo sulla nostra pagina Facebook la foto di Giampaolo che fa il balletto qui in studio. Sì, ma Angelo, queste informazioni andrebbero filtrate. Dov'è la censura in questa radio? Cioè, qua passa di tutto, siamo senza filtro proprio. Sì, vedo Carla che mi fa cenno che vuole una canzone. Sì, quale penso canzone vuoi? Magari la notte prima degli esami? Esatto. Buonasera, ben ritrovati qui a Radio Alma, ai colori dell'anima. Oggi parleremo di esami, quindi l'anno scolastico che si conclude, un periodo che simbolicamente si clôture, come diremmo in francese, che termina, e chi si stressa, chi non sa più come fare per ripetere, per ricordare, ce la faremo a questi esami, i risultati arriveranno, e se sì, quando? Chiede Giampaolo. Allora, arriva la correzione di una professoressa, la professoressa Giovanna Piombino. Questa professoressa dice: ragazzi, gli esami alle elementari, che adesso si chiama scuola primaria, non ci sono più. Grazie Giovanna. E poi ci segnala che in Italia oggi alla maturità hanno fatto la terza prova. Una miscellanea di domande di 5-6 materie. Ok, grazie Giovanna, nonché grazie professoressa. Prof, grazie. Yeah. Bene. Però li potevano eliminare prima che li facessi io, ma li eliminano sempre dopo. Ti faccio vedere che io quest'anno ho fatto l'esame di Stato, lo toglieranno perché la laurea sarà abilitante direttamente, come logicamente dovrebbe essere, come è qui in Belgio. Ricordiamo che in Belgio la laurea permette di accedere direttamente alla professione, quindi io ho perso il mio tempo, che bello! No, bene. Ma ritorniamo al nostro stress da esame, perché in realtà tante persone si stressano, io compresa, perché c'è Leonora che è arrivata, Angelo, ci arriva un messaggio direttamente da Leonora che sarà la nostra ospite tra pochi minuti. Bene, quindi perché ci stressiamo a causa di questi esami? Perché molto spesso ci sentiamo insicuri di non ricordare. Perché non abbiamo studiato. Perché molto semplicemente io mi vado a cercare queste risposte chissà quanto lontano. Invece, no, però Giampaolo, non mi puoi negare che ci sono persone che temono le aspettative dei genitori, non sono sicuri dei loro metodi di studio, quindi in realtà studiano, ma non sono sicuri del metodo che utilizzano, e per questo diciamo ripetono mille volte qualcosa che ormai hanno imparato, e poi attribuiscono a questi esami un'importanza esagerata, come se fosse qualcosa di che non potrebbero mai rifare. È vero, sono d'accordo su questa cosa. Secondo me c'è tanta gente che non riesce tante volte a dare la corretta dimensione agli esami e li affronta con troppa ansia. Vabbè che è anche una cosa normale, credo che tutti siamo un po' più tesi quando stiamo per sostenere un esame, di qualunque esame si tratti. Però ecco, secondo me, questo volevo dire, nella mia breve esperienza potrei dire che l'aspetto psicologico, l'aspetto emotivo dell'esame sicuramente gioca un ruolo importante sull'esito, a prescindere comunque da quello che è il livello di preparazione. Assolutamente, ed è per questo che a me piace sempre ricordare un concetto che mi piace tantissimo, di Bandura, che parlava di autoefficacia percepita, ossia quella sensazione di, molto banalmente, autoefficacia di... percepita. Attenzione, sì. Paroloni. Come dice la parola stessa, è la sensazione di potercela fare, quella cosa che scatta quando c'è una sfida e ti dici: ma sì, ma io ce la faccio, riesco a farlo. Ed è quello che molto spesso, a prescindere dalle capacità, ti dà una marcia in più. Due persone con la stessa capacità, le stesse conoscenze, ma con un livello di autoefficacia percepita diversa hanno due risultati diversi. È vero, è vero. Sei d'accordo? Certo, se poi uno studia e l'altro no. No, dico, sapendo uguale, insomma. Tu come è ce vero. L'hai l'autoefficacia? Ti senti autoefficace? Ti percepisci fico? A questo punto io chiederei agli amici di Facebook, perché vedo che anche Carmelo ci ha scritto, che ci sta ascoltando, anche mi sembra Antonello Alfieri, no, Vincenzo Alfieri, che augura gli auguri e augura gli auguri. Lui ha l'esame di stato. Io vorrei i commenti su questa, vorrei commenti su questa affermazione. Vi lascio continuare. Ti senti fico? Ma prossima domanda. Ma certo, mi sento fighissimo, guarda qua. Sono qui a condurre questo, a co-condurre con te questo programma radiofonico che è super fico, con tanti amici, con il nostro regista che sta addentando un piatto di rigatoni. No, non le dire queste cose, siamo nascosti, siamo... Ma questa è una radio alternativa. Ma no, questo è il bello della radio. No. Che non si vede. Ingoia. Sì, però si sente se mastichi. Comunque mi fa piacere che Vincenzo si sia fatto sentire. Lo saluto, mio carissimo amico, un mio fratello Vincenzo. E purtroppo per lui magari potrei raccontare qualche aneddoto, perché Vincenzo ha condiviso la carriera universitaria. Ne parleremo in seguito. Io ho avuto la disponibilità della professoressa Giovanna Piombino ad essere intervistata insieme ai due suoi bimbi, perché dovete sapere che lei ha due bambini, due graziosissimi bambini, uno è già un ragazzo, Alessandro ed Andrea, e loro hanno fatto appunto la scuola elementare quest'anno, quindi hanno finito. Ma che dici? Uno ha fatto la scuola media e l'altro ha fatto, mi se non sbaglio, la scuola elementare, è entrato nelle scuole elementari. Quindi sarebbe bello anche vedere e sentire queste testimonianze. Prima media e prima elementare. Il collegamento con loro avverrà alle 21:30, quindi rimanete qui sulle frequenze di Radio Alma 101.9 per chi ci stesse ascoltando dall'estero, quindi dall'Italia oppure dal Burundi o magari dalle Filippine. Ci potete sentire in streaming su radioalma.eu. Vi ricordiamo il sito è www.radioalma.eu/i colori dell'anima, dove troverete tutte le nostre puntate in podcast, anche la suddetta puntata. Adesso vi lasciamo con un brano intitolato Il Renascente e poi torniamo in studio con la nostra ospite Eleonora Fuser. Tutti siamo qui su Radio Alma 101.9 FM. Questi sono i colori dell'anima, l'abbiamo ridetto. E il numero di telefono per chiamarci in diretta è lo 02 345 26 56 o sulla nostra pagina Facebook Angela e Carla On Air. Potete interagire con noi, proporre, fare richieste di canzoni, quello che volete. E raccontarci aneddoti degli esami, soprattutto oggi. Sì, oggi quindi abbiamo scelto di parlare degli esami come periodo conclusivo di un anno scolastico, che sia universitario, all'elementari, quando vi pare. E per l'occasione abbiamo invitato anche una nostra carissima amica, Eleonora Fuser. Ciao a tutti, grazie per avermi qui stasera. Grazie a te di essere venuta, di esserti fiondata dopo il lavoro, senza neanche... il tempo di cenare, ecco, questi sono gli invitati seri. Non c'è nessun problema, guarda, per voi questo è altro. Dai. E Eleonora, ti ricordi qualche episodio particolare di qualche tuo esame? Non so... Beh, oddio, di esami ne ho fatti tanti. Beh, immagino, Tu sei laureata in? Scienze internazionali diplomatiche. Allora. Due volte, a Forlì. Come due volte? Nel senso che ho studiato lì sia per la triennale che per la specialistica. Ah, ok. Quindi okay. Sono una affezionata, diciamo, a quel corso lì. Di studi, sì. E, guarda, di esami ne ho fatti tanti nelle condizioni più differenti, dall'aspettare dalle 9:30 di mattina per essere poi esaminata per terz'ultima alle 8 di sera con il con il bidello dell'università che fa ciondolare le chiavi per farsi sentire perché vuole andare per dire, a cena. Dai, andatevene. Esatto. Sono esperienze mistiche queste. Mistiche. Esatto, perché poi dalla spirituale. tensione, sì, dalla tensione poi rimani lì e tutto quello che hai studiato ovviamente ti esce completamente dalle orecchie. Da altre parti del corpo, diciamo, senza andare nei particolari. Io c'ho la cosiddetta, dagli occhi, la cosiddetta ossessione, non ossessione, come dire, bisogno di andare in bagno, che poi non si concretizza, però in realtà prima così, dell'esame questo. Prima dell'esame, sì. È bello perché a me ha sempre affascinato questo momento prima degli esami per la differenza con cui le persone vivono questo modello, è vero, sì, perché alla fine lo stress si manifesta in un sacco di modi diversi. Quindi tu sentivi il bisogno proprio di andare in bagno. Ma diciamo un sintomo recente, che poi ti ripeto, insomma, non si concretizzava, però era così, ci devo andare, perché se casomai, poi questo è successo a questa prova scritta di tre ore, e se poi dopo non mi fanno andare, come faccio? Ci vado prima. Guarda, invece a me è sempre venuta una gran secchezza delle fauci, quella sete proprio atavica, e bevevo litri e litri di acqua, perché proprio e poi c'era anche tu in bagno. Siamo fini, Angelo, ci puoi anche censurare se vuoi. Non in diretta. No, state andando benissimo. E quindi bevevo tanta acqua, poi sai il solito sudore freddo, ma la classica lingua felpata, se mi passi l'espressione, quel mattone che hai in bocca e che ti fa iniziare un po' impastata. Io invece avevo la lingua scatenata, perché quando entravo in tensione... Quando entravo in tensione prima dell'esame, soprattutto quando c'era tanto da aspettare, non so perché a me la tensione giocava uno scherzo particolare, io cominciavo a dire stupidaggini, non che normalmente io dica delle cose troppo serie o intelligenti. Radioascoltatori, precisiamo. Però vi assicuro che in quelle mattine d'esame, ma anche in quei pomeriggi, anche in quelle serate, perché anche io ho fatto settimane di accampamento prima di fare degli esami, e veramente davo là il meglio di me, sparavo tante di quelle cavolate incredibili e ridevo per ogni stupidaggine. E poi ragazzi, avete un rituale, avete qualche cosa? Io per niente, però insomma ci sono bellissimo, persone. I rituali, dai, rituale. Scateniamo il web. Webboni, webbati, voi che siete lì su facebook.com/angeloecarlaonair, cosa e quale rituale facevate, mettevate in atto prima del vostro esame? Vai, indiciamo, vai, andiamo con il sondaggio. Scrivete, telefonate, sondaggiate, fateci sapere che cosa succedeva, che cosa doveva succedere prima di ogni vostro esame, la mattina, la notte prima, il pomeriggio prima, fateci sapere. C'è quello che si mette il cappellino sempre lo stesso, 4 stagioni su 4, quello che c'ha il portachiavi magico, quello che si deve toccare da qualche parte, insomma ce ne sono tanti. Eleonora, c'hai un rituale? Io ne avevo un paio, uno erano fa sorridere ovviamente, ma era la lingerie, diciamo così, le mutande da esame. Attenzione, no, tu così mi scateni il web, il tabollino rosso. Me lo scateni. Ci sono dei bambini in ascolto. No, erano un paio di slip tutti con i fiorellini che mi mettevano un sacco di allegria, e allora era solamente un sistema. Cioè, questa è proprio... Vabbè, però erano con i fiorellini. Con i fiorellini, niente di indicibile. E poi andavo sempre a piedi all'esame, così riuscivo a smaltire un po' di ansia, ecco. E ci riuscivi? Sì, il più delle volte sì, anche perché ho il passo da bersagliere, quindi arrivavo proprio... dopo una corsa sostanzialmente. E cantavi anche l'inno di Mameli? No, quello no, perché arrivavo un po' senza fiato, quindi avevo il tempo di attesa per l'esame. Esatto, potevo riprendere fiato mentre aspettavo di essere esaminata, quindi avevo tutto il tempo del mondo. Perché voi avete fatto tutti esami orali? Sì, il più delle volte, ecco, per la specialistica sì, nella triennale più esami scritti. Dai, anch'io, così mia sorella Rachele, che mi sfotte da quando ormai mi sono laureata, e dice che solo io in Italia ho fatto il 90% di esami scritti, che quindi sono incompetente. Ecco, no. diciamolo, è un fenomeno nazionale, alla triennale si fanno gli scritti. Sì, anche perché poi eravamo veramente tanti alla triennale. Esatto, era l'unico modo anche per i professori per uscirne vivi, insomma, da queste sessioni. Mm-hmm. Poi ovviamente ogni materia aveva le sue leggende metropolitane e ovviamente le preferenze dei professori per ogni cosa. Senti, ma invece vogliamo parlare degli esami di stato di diploma, insomma, della maturità, però aspettate, prima della maturità, perché per arrivare alla maturità bisogna essere, come dice proprio il termine, bisogna essere maturi. E prima di arrivare ad essere maturi, come si dice, prima d'arriver à être maturité, ascoltiamo questi piccoli ragazzini che vengono dalla scuola elementare e media, ma li ascoltiamo dopo il pezzo di Tiziano Ferro, che sarà qui in Belgio. Ricordiamo per tutti i nostri ascoltatori che sono qui a Bruxelles, sarà a Forêt Nationale il 4 luglio se non sbaglio, e questa è per un... aspetta che non la vedo, per un po' sparirò, eccola qui, Tiziano Ferro. I colori dell'anima qui su Radio Alma 101.9 FM a Bruxelles, siamo qui riuniti io, Giampaolo, Eleonora e in regia abbiamo Angelo Gregorio. Ciao a tutti. Che squadra, ragazzi. E siamo una super squadra qui per parlarvi di esami di quest'anno che si conclude e qualcosa di nuovo che si aprirà nel mese di settembre. Ma c'è chi ancora, soprattutto per chi ha l'università e soprattutto in Italia, chi ha per tutto il mese di luglio esami da fare, o ancora chi si sta diplomando, e insomma ognuno il suo. Ma parlavamo di questi esami, rituali, souvenir, ricordi, ma si parlava anche di paura. Questa paura, che cosa può celare la paura? Ovviamente, abbastanza intuitivamente, immaginiamo che c'è dietro la paura un'insicurezza, e molto spesso potrebbe essere accompagnata da una, diciamo, un ambiente, diciamo, di aspettative eccessive nei confronti del ragazzo che deve sostenere questo esame. Ma ricordiamo che la paura è anche un'emozione adattiva, cioè che vuol dire? Vuol dire che ha anche delle caratteristiche positive, come caratteristica positiva quella di essere motivante, ossia di accelerare il pensiero, di renderci più attivi, più partecipi, ma ovviamente, come in tutte le cose, è l'eccesso che la rende disadattiva e che può portare, insomma, al panico e a, così, ai cosiddetti vuoti di memoria. Dio professore, non ricordo più nulla. Ecco, per non arrivare a questo, ognuno ha un po' creato i suoi rituali, i suoi sistemi, o chi fortunatamente, grazie a un sentimento di sicurezza maggiore rispetto ad altre persone, non arriva mai a questa fase di panico. Ma nel caso in cui ci si dovesse arrivare, che consigli vogliamo dare ai nostri radioascoltatori? Per me, ascoltare tanta buona musica prima di andare all'esame. Per me era una cosa che aiutava, era un sistema che mi galvanizzava o che mi tranquillizzava a seconda della situazione o dello sforzo che dovevo affrontare. E la musica comunque mi ha sempre accompagnato nella mia vita, però negli esami ho trovato... E c'era una canzone in particolare che... No, in particolare no, dipendeva molto dall'umore, potevo andare dalla musica classica al jazz o al rock, quello duro, per sentirmi meglio o più tranquilla o solamente con più energia. E tu, Giampaolo? Ma io avevo un rituale prima di ogni esame, che non era lo stesso giorno ma era la sera prima. Io praticamente per 3 anni, durante la mia laurea triennale, tutte le sere prima dell'esame ho ordinato la stessa pizza nello stesso posto per telefono. Grandioso. Infatti quando poi, con spirito goliardico, all'indomani della mia laurea ho deciso di prendere un pacchettino di confetti e sono andato alla pizzeria e li ho portati per ringraziarli di questa assistenza. Il problema è che loro non conoscevano la mia faccia, non conoscevano il mio nome, mi hanno riconosciuto solo quando ho detto il mio indirizzo. Cioè, quello della pizza rucola con Coca-Cola, sono io. Bellissimo. Io non so, stavo cercando, ma in realtà non sono mai stata fatalista, ho sempre creduto, insomma, che quello che sapevo, il modo in cui mi ponevo, era un po' la causa, insomma, della... E poi la famosa ciorta, termine intraducibile, termine napoletano. La ciorta. E cos'è? È la fortuna. Ah. Ci sono delle parole in napoletano difficilmente traducibili, però la ciorta, diciamo, si traduce la fortuna. E beh, credo nella ciorta. Invece, per quello che dicevamo prima della musica, io mi è venuto così un ricordo, adesso un flash, cioè il mio coinquilino all'università, che praticamente a un certo punto si era fissato ogni mattina che andava a fare l'esame, perché pretendeva che io lo accompagnassi con la mia macchina durante il tragitto. Ascoltavamo tutto il CD dei Placebo ogni santa volta. Sempre Special lui. K, no? Era il singolo più famoso. Non mi ricordo, io adesso con questi nomi mi confondo un attimino. Ma... Forse ti ricordi piuttosto i Special Kellogg's. No, quelli sono troppo leggeri, troppo leggeri. Troppo leggeri. Con che fai colazione, Giampaolo? Ma pecorino, porchetta. Una bella peperonata. Ecco, bene, bene. Ma ritorniamo ai nostri esami e qualche consiglio per coloro che sono sotto esami, stressati, sudati e puzzolenti. Lavatevi. Allora, prima cosa, andate lavati, se no il professore vi schifa. È sempre un ottimo consiglio, perché non solo il professore, ma anche tutti i vostri amici e colleghi. Esatto. Insomma, nutriranno altrimenti dei brutti pensieri. Poi cambiatevi le mutande, mettete la mutanda fiorellini di Eleonora. Consigliatissima la mutanda fiorellina. Poi se la trovano, insomma, anche con i mostri va bene. L'importante è sentirsi allegri. Bene, quindi il perizoma lo sconsigliamo. Dipende dalle abitudini personali, Carla. Io adesso non. Vabbè, io quello che devo dire è che mi fa un po' schifo è quando vai a fare l'esame, quella seduta davanti a te c'ha sto ferizoma che esce fuori, abbiate pietà. Sì, insomma, sì. Mettetevi le mutande. Ok. Quindi ritorniamo ai nostri esami, alle nostre tecniche di apprendimento, qualche piccola chicca. Allora, giusto qualche concetto qua e là. Diciamo che l'apprendimento è maggiormente affidabile, va a buon fine, se è diluito nel tempo. Ovviamente queste sono parole che vanno nel vuoto, perché sappiamo che gli studenti studiano l'ultima settimana come i folli e prima di questo fanno, come si dice qui in francese, fanno la festa. Però insomma, se diluite... Ah, quindi non sono solo io a fare questa cosa. Mi iscrivo anch'io al club. Ma mi sento, diciamo, sollevato. Se diluite lo studio nel tempo, esso resterà più a lungo. Inoltre c'è la tendenza della memoria e dell'apprendimento a ovviamente memorizzare meglio ciò che comprendete, ciò che capite. Quindi quanto più sarà elevata il livello di elaborazione e di comprensione, più vi ricorderete. Poi quando ripetete cercate di fare collegamenti nuovi, efficaci e che siano veramente relativi alle vostre conoscenze e quindi basta unire vecchio e nuovo, fate un bel respiro e vai, si scassa tutto. E quindi, studenti di tutta Italia, collegate. E infatti noi adesso... Schematizzate. Noi adesso ci colleghiamo direttamente da Bruxelles a Caserta e abbiamo in onda la nostra professoressa Giovanna Piombino. Dovrebbe sentirci in questo momento, dovremmo sentirla tutti. Sì, ciao. Siamo qui. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Giovanna. Ciao prof. Ciao, sono qui con mio figlio Alessandro che vuole parlare con tutto il mondo. Ciao Alessandro, come stai? Bene, Alessandro lo vediamo già, lo sentiamo, è di poche parole, come tutti i bravi bambini, sono di poche parole, però loro finalizzano i bambini efficaci, senza parole. Poche parole, okay, ma buone. Concreto, allora, pragmatico. Allora, studio, avete delle domande da fare a una professoressa e ad un allievo che ha appena concluso il suo anno scolastico? Allora, facciamo una prima domanda a Giovanna, per quanto riguarda gli esami. Quando guardi dritto in faccia un esaminando... Allora, adesso che cosa succede? È successo che il volume della radio è un po' troppo alto, Giovanna. Dovresti abbassarlo. Ok, perché tu ci dovresti sentire con Skype. Ok, ci sei? Ok, chiudiamo il collegamento con Giovanna, ritorniamo in studio, cercheremo di ristabilirlo a breve. Dicevamo dei rituali, infatti i rituali sulla nostra pagina Facebook hanno proprio spopolato. C'è chi diceva che il rituale era, l'ho perso di vista, camicia rossa rigorosamente ad ogni esame, oppure Vincenzo diceva lunghe passeggiate il giorno prima senza aprire il libro. Oppure c'è Carmelo che dice preghiere a tempesta. Miracolo! Monica Fasan che ci dice camicia bianca con letterine sparse e dal taglio super cool, mi portava fortuna. E poi c'è Antonella che scrive per ben 39 esami zainetto rosso e camicia bianca, sempre la stessa, ovviamente, non lavata. Beh, è normale, Antonella. Anche quindi... la mutanda di Leonora non era lavata. Ritorniamo in studio e parliamo di ancora di questi rituali mentre io cerco di ristabilire il collegamento con Giovanna. Sì, mi piaceva l'idea delle lunghe passeggiate di Vincenzo, infatti questo è un consiglio che ho dimenticato di dare, ma che era nel mio decalogo. Quello, l'ultimo giorno, ovviamente cosa che io stessa non faccio, di pensare ad altro, fare soprattutto qualcosa che piaccia e che distenda. Ma io non sono d'accordo, soprattutto perché ho fatto altro tutto il periodo precedente e l'ultimo giorno studiavo come un matto. Guarda, cose di piacevoli, sostanzialmente, almeno nel mio appartamento con le altre ragazze, andava a finire a cibo, nel senso prendevamo qualcosa di molto sfizioso che almeno ci tirasse un po' su di morale, soprattutto nelle calde e afose estate forlivesi, dove ci ritrovavamo a girare le pagine coi gomiti perché si appiccicava tutto addosso. Non è male, e dolce o salato? Dolce o salato? Entrambi, il più delle volte. Soprattutto, sì, da quando abbiamo non ci facciamo mancare nulla. Esatto, sì. Soprattutto da quando le gelaterie fanno le consegne a domicilio. Dai. E allora lì insieme alla pizzeria perdute. Di Giampaolo. Sì, numero 8, cancelletto Nero Piccolo. Abbiamo ristabilito il collegamento con Giovanna, che però risponderà solamente alle mie domande. Sì. Ecco qui, Giovanna, sei lì? Sì, ci siamo. Ecco, adesso vi sento perfettamente. Allora, dicevamo, ti avevano posto una domanda qui in studio e la domanda era la seguente. Ecco, cambiando microfono penso ci sentiamo meglio. Allora, quali sono le cose che, senza che l'allievo, insomma, parli, risponda alla domanda, quali sono le cose che ti fanno già capire, o meno, se non esistono, se conosce la risposta? Il modo di anche di guardarti, lo sguardo, la postura, il gesticolare, quindi tutte l'insicurezza che viene dalla comunicazione non verbale, ti parla prima che il ragazzo cominci a parlare. Poi, se comincia a parlare, era solamente una paura normale dell'esame o dell'interrogazione. Se non ti dice niente, ti conferma. Quindi stiamo dicendo a tutti i ragazzi: ragazzi, non parlate perché il vostro corpo parlerà e vi prenderete un bel 10. No, poi dopo. se si parla. Ragazzi, ve lo dice una prof, non studiate, andate lì, il vostro corpo parlerà, non lavatevi, così più non vi lavate, più il voto salirà. E una domanda invece, grazie Giovanna per la tua risposta, grazie prof. E poi volevamo fare una domanda ad Alessandro, che prima ci ha risposto, ci ha detto che sta bene. Sei ancora bene? Sei vivo? Sì. Allora, Alessandro, una domanda per te. Ti è mai capitato di prima di un'interrogazione, perché tu di esami veri, esami ancora non ne hai fatti, vero? Non l'ho mai fatto. Ecco, giustamente, perché come dicevamo prima, l'esame di quinta elementare è stato eliminato, mentre noi il nostro tempo, noi che siamo vecchi, l'abbiamo fatto, e quindi insomma tu no. Allora, la domanda insomma è sulle interrogazioni. Ti è mai successo di sudare proprio freddo, di dover correre a bagno prima di un'interrogazione? Una volta ho usato come scusa per non essere interrogato, sono andato in bagno. Ma ti hanno chiesto cosa avevi? Quindi il tuo corpo ha parlato e ha detto alla professoressa: ok, questo non ha studiato, gli mettiamo un bel 2. E com'è andata a finire, Alessandro? Ti ha interrogato? Poi sono tornato e non mi ricordavo la lezione, quindi non mi ha messo 5. Ti ha messo? 5, sì. Ti è andata anche bene, Alessandro. Bravo, allora. Bravo, va bene. Senti, mi è sembrato di capire che hai un fratellino. Sì. Che si chiama? Andrea. Ciao Andrea. Andrea, come pensi sia andato il tuo anno scolastico? Bene. Ah, benissimo, vedi, Andrea è uno di come quelli... Come doveva andare, se no? Ma come doveva andare, se no? Ma questo è già un imprenditore, lui guarda già avanti. Beh, grazie, grazie del collegamento, grazie, grazie mille ad Alessandro, a Giovanna. Un'altra domanda, ti dispiace, ti fa piacere che è finita la scuola? No. Beh, questa è una cosa anomala. Ci voleva, eh? È una cosa anomala. Noi vi ringraziamo e vi lasciamo con il... La registriamo e la mettiamo qui nei registri di Radio Alma. Benissimo. Fate la stessa domanda a un bambino normale, ad Alessandro. E Alessandro, a te ha fatto piacere che la scuola è finita? Sì. E con le parole sagge di Alessandro, bambino sano, vi lasciamo sulle piste di Fast Car di Tracy Chapman. E rieccoci qua in studio con i colori dell'anima. Io sono Giampaolo, con me c'è Carla e Angelo alla regia, è una grandissima ospite, Eleonora Fuser. Ciao, ciao a tutti, di nuovo. Applause. Bene, allora, come avete sentito, se avete sentito prima trasmissione, il tema di oggi, lo diciamo anche per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, è giugno, periodo di esami, e quindi esami di tutti i tipi, dagli esami delle elementari che non esistono più, come abbiamo visto, agli esami dell'università e del liceo. Ma è anche tempo di cambiamenti, è anche tempo di cose che finiscono, e infatti dobbiamo dire che purtroppo la nostra Eleonora tra qualche giorno ci saluterà, lascia Bruxelles. Cose che finiscono, ma scusami Eleonora, ti lasceremo parlare tra pochissimo. Cose che finiscono, ma non finiscono mai i nostri messaggi su Facebook. Voi non sapete quanti messaggi abbiamo ricevuto nel momento in cui abbiamo postato la foto del balletto di Giampaolo sulla canzone Tanti auguri. È un qualcosa di incredibile. Poi abbiamo ricevuto un sacco di commenti anche da Giuseppe, che salutiamo. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando, soprattutto Elena e Michelangelo, che sappiamo all'ascolto, e magari salutiamo anche i bambini Matteo, Leana e Lorena. Quindi ciao, squadra, ragazzi. Che squadra. Ciao ragazzi, numerosi sms, auguri al DJ Jean Paul dal Trentino, con l'auspicio di poter gradire appena possibile una coscia per festeggiare Francesco. Poi altri messaggi, come quest'ultimo qui che ci è arrivato: complimenti per la trasmissione, siete dei capolavori. Poi c'è un attimo: siete ragazzi eccezionali, contagiate tutti con la vostra spontaneità, allegria, e che Dio vi benedica. Rosa Maria, abbiamo fatto anche la rima. Grazie a tutti, e scusate se non possiamo leggere tutti i vostri messaggi, che sono tantissimi. Vi ringraziamo. Noi ci vediamo qui l'ultimo lunedì del mese, quindi sarà l'ultimo lunedì di luglio, ma lasciamo la parola a Eleonora adesso, scusate. Di niente. Sì, come diceva Giampaolo, purtroppo lascerò Bruxelles questa settimana, venerdì, ahimè, però per un buon motivo, nel senso che ho trovato un nuovo lavoro che sarà a Roma, e quindi passerò a lidi più caldi sicuramente di qui e più assolati. E sarà una bella opportunità, quindi sarà una transizione positiva, ecco. Scusami, insomma, cosa hai trovato a Roma? A Roma, udite udite, lavorerò al NATO Defense College. Sì, sarà un lavoro molto stimolante, perché sarò in contatto con i media, giornalisti e personale NATO, ed era un'opportunità che ho cercato e inseguito per lungo tempo, e finalmente... Ma ti faranno pilotare un cacciabombardiere? Non lo so ancora, no? Dobbiamo chiedere a Carmelo in ascolto, che lavora per la NATO qui, se può fare qualcosa per farci andare, sì, sul cacciabombardiere. Sì, qualche codice di lancio di qualche missile già ce l'ho, magari farmi premere qualche bottone sarebbe molto divertente. Al di là di questo, sì, sarà una gran bella esperienza, insomma. Quindi, insomma, sei riuscita ad avere una cosa che tantissime persone qui a Bruxelles per anni e anni e anni rincorrono, ossia un buon lavoro in Italia. Sarà buono, purtroppo sarà anche temporaneo. Ok, quindi un contratto a tempo determinato. Sì, di 5-6 mesi. Okay. Vedremo se verrà prolungato o meno. In questo momento mi importa fino a un certo punto, nel senso che per me l'importante è iniziare ad essere lì. E poi da cosa nasce cosa, esatto. Quindi insomma, vedremo cosa nascerà. E dai, già sono nate un sacco di cose qui a Bruxelles, delle amicizie, la tua presenza qui a Radio Alma, e quindi insomma non potranno esserci che delle bellissime cose. Facciamo tutti i nostri più grandi auguri ad Eleonora. Eleonora, ti chiediamo di scegliere un colore per la trasmissione di oggi. Verde, verde, assolutamente okay, verde. Ok, verde, il colore che sceglie Eleonora è il verde. A voi amici di Facebook e messaggiari che ci messaggiate, a voi di scegliere anche il vostro colore, postatelo su Facebook e poi questa puntata sarà in podcast. Ricordiamo ancora quando ci vedremo? L'ultimo lunedì del mese di luglio, insomma come tutti i mesi, tranne probabilmente il mese di agosto in cui saremo in vacanza, che è il 30 luglio. Sì, il 30 luglio, e altrimenti insomma noi siamo sempre qui l'ultimo lunedì del mese a farvi compagnia, e abbiamo dimenticato di chiedere ad Eleonora da dove viene. Domanda complicata, voi che mi conoscete. Allora, io abito da molti anni ormai a Senigallia, in provincia di Ancona, sul mare, bellissimo. Però in realtà sono veneta di Treviso. Ok, giusto per collocarci un attimo. Benissimo, voi sapete che ieri l'Italia ha vinto e siamo ufficialmente nella semifinale. Adesso c'è la massima del nostro guru, che viene dall'India e ha il suo jingle che lanceremo in questo momento. Oggi dall'India abbiamo un proverbio calcistico: squadra che vince ha avuto culo. Grazie. Grandissimo! Madonna, ma come hai fatto a collegarti con questo? I forti canali. Forti canali, ho capito. Sì. Allora, ricordiamo ancora le nostre frequenze. 101.9 FM, siamo qui a Bruxelles, questa è I Colori dell'Anima, in diretta tutti i lunedì dalle 21 alle 22. Noi saremo con voi l'ultimo lunedì del mese, ma insomma ad ogni, c'è una coppia, diciamo un binomio, a lunedì, ogni lunedì del mese. Vi faremo compagnia per un'ora, quindi dalle 9 alle 10. La nostra ora sta per terminare. Facciamo di nuovo gli auguri a Giampaolo, che fa 17 anni e mezzo. Ciao, grazie a tutti, grazie. Un grandissimo in bocca al lupo a Eleonora Fuser. Crepi, crepi. Che andrà a Roma venerdì. Un in bocca al lupo per i nostri risultati di esame di Stato. Sì, aspettiamo. Triestini, sbrigatevi. Fateci sapere alla nostra pagina e dateci i risultati, dai. Sì. E poi volevo fare un saluto particolare ad Antonella, che ha finito i suoi esami e che adesso invece si sta preparando per la tesi di laurea, quindi un grande in bocca al lupo anche a chi prepara questo esame. Grazie di averci ascoltato. Poi un bacione grandissimo ad Andrea, Alessandro e Giovanna, grandissimi ascoltatori fedeli di questa trasmissione. Grazie per l'intervento. Grazie ad Angelo alla regia. Vincenzo, grazie per avermi avuto qui. Antonella. Ciao Vincenzo dalla Germania. Vorrei salutare anche Gio Giarra, tutti quelli che ci ascoltano fedelissimi. Carmelo, Michelangelo, Folino. Sì, e festeggiamo qui in studio la vittoria dell'Italia. Ci vediamo tutti contro la Germania giovedì sera. E se ci siete, venite tutti a casa di Michelangelo e di Elena. Vai. Ricordiamo che I Colori dell'Anima 101.9 sarà in onda ogni lunedì. Il nostro staff è composto da tantissima gente: c'è Barbara, c'è Monica, c'è Rosanna. C'è Rosanna, grandissima Rosanna, ti mandiamo un abbraccio. C'è Barbara, c'è Cristina, e salutiamo anche Monica che è tornata in Italia. Tutte queste persone fanno parte dello staff dei Colori dell'Anima qui in onda su Radio Alma. E infatti a noi siamo un gruppo a cui piace molto festeggiare, parlare, si vede che siamo arrivati all'estate e siamo qui in area di festa, e infatti è per la festa che facciamo ancora tanti auguri a Giampaolo. E grazie. Io sono Giovanni Pascolo di Canica T, volevo con voi congratularmi per la vostra trasmissione. E siccome ho sostenuto pure io un esame da qualche settimana e proprio oggi mi hanno dato i risultati, lo volevo condividere con gioia con tutti voi. Una grande gioia, mi hanno trovato i globuli bianchi 7.000, globuli rossi 10.000, le testrine 100.000, colesterolo 250, T frigo di 130 e posso mangiare la pasta alla carbonara, le tagliatelle alla matriciana e posso mangiare uno di tutti, il castrato al barbecue. Alla faccia degli esami, viva